Bologna e dintorni. Come va il mondo? Benvenute e benvenuti a questa seconda puntata di Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e oggi vi porterò in Asia, e più precisamente in Asia orientale, per parlare di donne e diritti delle donne. Il movimento femminista probabilmente costituisce il fenomeno, la piattaforma di rivendicazioni politiche e sociali più significativa degli ultimi anni, anche da noi in Occidente, in quanto è stato capace di far emergere pratiche sociali e anche politiche di discriminazione, di vera e propria soverchieria che si sono sedimentate nel corso del tempo e alle quali purtroppo abbiamo fatto l'abitudine. In questo contesto l'Asia orientale non è stata immune dalla scossa femminista e da processi di rivendicazione e di richiesta di maggiori diritti. Naturalmente l'Asia orientale è un contesto molto variegato, convivono paesi di dimensioni e di regime politico molto differente. Mi riferisco naturalmente alla Repubblica Popolare Cinese, a Taiwan, il cui nome ufficiale è quello di Repubblica di Cina, alle Coree, la Corea del Nord e la Corea del Sud, e ovviamente anche al Giappone. Nella Repubblica Popolare Cinese nel 2015 è stata abrogata la legge del figlio unico, misura che per oltre 40 anni ha imposto alle donne della maggioranza etnica Han di poter avere un solo figlio. Più recentemente le donne sono state protagoniste di alcune delle battaglie sociali più rilevanti nel contesto della Repubblica Popolare. Uno di questi è il movimento MeToo, che in Cina come altrove si è dimostrato in grado di far emergere le contraddizioni, gli abusi e le discriminazioni di cui sono oggetto le donne cinesi, e che dal 2017-2018 ha costituito uno dei momenti più significativi dei movimenti sociali in Cina. Un altro degli esempi a cui possiamo fare riferimento è la partecipazione di gruppi femministi ad alcune delle battaglie che hanno riguardato i posti di lavoro e i movimenti di fabbrica. Naturalmente la Cina ha un contesto, vive un contesto molto specifico, che è quello che fa riferimento al suo regime politico. Come è noto, infatti, dall'ascesa al vertice della leadership cinese di Xi Jinping nel 2012-2013, la Cina vive una fase di torsione autoritaria molto forte, e questo naturalmente ha determinato implicazioni significative per le lotte sociali e tra queste anche per le lotte femministe e per i diritti delle donne. Anche Corea e Giappone sono stati teatro di movimenti femministi molto importanti. Anche in questi due casi il movimento MeToo ha costituito uno degli esempi più importanti e forse più significativi degli ultimi anni. In queste società, nonostante i regimi politici siano di ordine democratico, i diritti delle donne, l'agibilità dei diritti delle donne nella società si scontra con l'esistenza di gerarchie sociali consolidate, cristallizzate, in cui è quasi sempre l'uomo a essere il soggetto sovraordinato. Entrambi i paesi hanno vissuto numerosi scandali che hanno visto protagonisti uomini di potere o di grande influenza pubblica commettere abusi nei confronti delle donne. In Corea del Sud il presidente Yoon, il conservatore Yoon, all'indomani della sua elezione nel 2022 non ha mancato, e poi ha ripreso in più occasioni, di dichiarare che non esiste un problema di misoginia e di discriminazione in Corea del Sud. E in tutto ciò nel paese è anche nato un partito dichiaratamente misogino. Questi elementi sono tutt'altro che esaustivi e chiaramente ci aiutano a ricostruire soltanto una parte dello scenario che riguarda le donne, i loro diritti e i movimenti femministi in Asia orientale. Per capirne di più, però, vi invito a rimanere su queste frequenze e a risentirci dopo un breve stacco musicale. Bentornate e bentornati. Dunque, questi erano i Moja, basso e batteria dal Giappone. Per cercare di comprendere di più, di approfondire l'argomento di oggi, donne e diritti in Asia e in special modo donne e diritti in Cina, abbiamo come ospite Sara D'Attoma, ricercatrice dell'Università di Verona e autrice del libro Fiori di Pioppo al Vento, storie di donne cinesi in cerca di diritti. Buongiorno Sara. Buongiorno Alessandro, grazie dell'invito. Partirei immediatamente con una domanda, come di consueto, di ordine generale. Ti chiederei di aiutarci a ricostruire un po' lo stato dell'arte. Come stanno i diritti delle donne nel mondo cinese in questo momento? Quando parlo di mondo cinese ovviamente mi riferisco al contesto della Repubblica Popolare Cinese e a Taiwan. Che cosa sta succedendo, se qualcosa effettivamente sta succedendo, negli ultimi anni in questi contesti? Dal tuo modo di vedere, quali sono i principali problemi e quali procedure e movimenti sociali ne sono scaturiti? Dobbiamo partire dal presupposto che esistono in queste due realtà anche ordinamenti giuridici diversi, si sono mossi e si sono sviluppati diversamente anche per quanto riguarda in alcuni casi i diritti delle donne. Attualmente, nella mia prospettiva, che è una prospettiva che è principalmente anche giuridica, come spesso succede, da un punto di vista legislativo esistono tutta una serie di diritti e norme che sono stati anche garantiti, alcuni anche sono precedenti, se penso al diritto appunto legato al divorzio, e sono anche precedenti ad alcune realtà, tipo anche quella no italiana, in Cina lo troviamo già negli anni 30. Sicuramente da un punto di vista delle leggi l'uguaglianza di genere è sempre stata tutelata e esiste tutto un apparato normativo che garantisce questa uguaglianza. Penso anche alle recenti modifiche che sono state fatte, ad esempio alla legge sulla tutela dei diritti e interessi delle donne della Repubblica Popolare Cinese, che mirano in qualche modo a scardinare anche alcune delle discriminazioni che le donne spesso incontrano in ambito ad esempio lavorativo. Rimangono alcune questioni aperte attualmente per alcuni aspetti che riguardano i diritti riproduttivi. Sappiamo che per tanti anni in Cina si è praticata la politica del figlio unico, legata alla politica di pianificazione delle nascite, e attualmente si assiste a un cambiamento da questo punto di vista che mette in qualche modo in discussione anche nuovamente e in un altro modo i diritti riproduttivi. Esistono ancora delle problematiche legate ad aspetti lavorativi, penso all'assenza delle donne, più che l'assenza, ecco, una minore partecipazione delle donne per quanto riguarda i vertici manageriali, ad esempio, alcuni problemi legati ancora al gap salariale tra uomini e donne, che sono poi problemi che non sono solo della Cina, se vogliamo dirlo. Alcuni elementi ancora legati alle difficoltà in ambito familiare, che sono magari anche quelle legate alla violenza domestica. Poi ci sono stati alcuni passaggi importanti, come l'inclusione delle molestie sessuali all'interno del codice civile del 2021. Ci sono stati tutta una serie di passaggi ed evoluzioni per quanto riguarda il diritto. Sicuramente queste problematiche che ti ho accennato sono quelle attualmente di cui si discute, ed esistono poi anche tutta una serie di movimenti sociali che si sono sviluppati in Cina in particolare, ma anche a Taiwan, sebbene magari in periodi diversi, dei movimenti di donne che, soprattutto con l'avvento poi ad esempio dei social media, hanno permesso di poter raggiungere più donne, più persone sulle questioni legate ai diritti delle donne, però allo stesso tempo hanno anche incontrato un po' di ostacoli. Mi collego a questo tuo ultimo input relativo agli ostacoli. Sembra di capire, e in questo, come accennavi, non c'è una grossa differenza rispetto alle latitudini e longitudini a cui viviamo noi. Il quadro degli ostacoli, insomma, include elementi di tipo sociale, quindi resistenze di tipo culturale e sociale, di prassi sociali, di comportamenti, e anche fenomeni politici. Ci aiuti a ricostruire un quadro degli ostacoli principali ed eventualmente a capire se ci sono delle differenze sostanziali, per esempio, tra Taiwan e la Repubblica Popolare Cinese, che come sappiamo sono territori con una differenza sostanziale in termini di regime politico. Per quanto riguarda questi ostacoli di cui facevo riferimento poco fa, li troviamo maggiormente direi nella Repubblica Popolare Cinese per alcuni aspetti anche legati a quello che è anche un po' il aspetti governativi o comunque della leadership, che hanno negli ultimi anni tollerato, diciamo, questi movimenti che possiamo definire femministi, finché non vanno a toccare quella che è la sfera politica. Un altro, secondo me, elemento importante parlando di Cina è la questione legata anche alle difficoltà che riscontrano questi movimenti da un punto di vista di registrazione come ONG, e anche un altro elemento che è quello del timore probabilmente del governo, comunque di un movimento che possa in qualche modo creare dell'instabilità sociale, che è un aspetto estremamente importante, questo del mantenere la stabilità sociale, in particolare tra gli obiettivi, no, della Repubblica Popolare Cinese. Sono a volte anche ostacoli di tipo culturali che possiamo risalire a quella che è l'esistenza in alcuni casi di una società legata ancora ad alcuni valori tipo patriarcale, che poi si rimanda a tutta la questione chiaramente della tradizione confuciana. C'è anche questa idea che l'emancipazione della donna in qualche modo possa portare con sé anche quell'elemento un po' di declino della famiglia, che in particolare in questo momento storico in Cina si assiste all'invecchiamento della popolazione, potrebbe creare delle problematiche a quelle che sono un po' le scelte governative in questo momento. Per quanto riguarda la Repubblica di Cina, dunque Taiwan, ha riscontrato probabilmente meno ostacoli dal momento in cui dal 1987, abolita la legge marziale, si sono potute costituire tutte queste associazioni di donne che hanno poi favorito tantissimo quello che è stato il quadro normativo, ad esempio penso alla legge contro la violenza domestica del 98, ma anche quella che riguarda le violenze sessuali, e quello ad esempio per quanto riguarda Taiwan si è anche poi sviluppato poi ulteriormente nella creazione anche di leggi che riguardano ad esempio la comunità LGBTQ, che invece in Cina trova ancora molti ostacoli da un punto di vista, no, governativo. Il confucianesimo è un principio ordinatore della società che permea anche altri contesti nazionali, penso alle Coree, al Giappone. Se ti chiedessi di applicare un ragionamento che riguarda i diritti delle donne o il percorso dei diritti delle donne, le rivendicazioni delle donne o i movimenti femminismi nella sfera confuciana, quindi includendo anche i paesi che menzionavo, è possibile tracciare un quadro omogeneo? Naturalmente non lo è, perché ci sono delle differenze sostanziali, però individui dei caratteri di fondo che sono molto significativi, oppure per quella che è la tua esperienza di studio e la tua conoscenza, siamo di fronte a casi che, pur diciamo in un contesto sociale imperniato attorno al confucianesimo, manifestano delle differenze molto rilevanti. Come dicevi giustamente tu, questa matrice in qualche modo confuciana la ritroviamo in molti paesi dell'Asia, in vari ambiti, da quella che può essere la figura femminile o anche da un punto di vista legata proprio allo sviluppo anche poi del diritto. È un po' la radice di tutti questi paesi. L'aspetto quello confuciano è quello di una società fortemente gerarchizzata, patriarcale di base, in cui la figura femminile è subordinata sempre a una figura maschile. Si parla solitamente nel contesto cinese delle cosiddette tre obbedienze, in primis al padre, poi al marito e successivamente al figlio. Chiaramente tutti questo sistema è stato smantellato negli anni in periodi diversi in base al paese di riferimento. Cina e Taiwan hanno fino a un certo punto un percorso simile, che è fino all'inizio poi del Novecento, poi si in qualche modo si separa. Da un punto di vista, ad esempio, penso al Partito Comunista Cinese da una parte, il Partito Nazionalista ancora all'inizio del Novecento, entrambi hanno lavorato per smantellare un po' quel sistema che vedeva la donna in qualche modo priva di diritti e totalmente soggiogata alla figura maschile. E questo perché poi la donna è stata richiamata anche a partecipare alla vita economica del paese ed era dunque necessario che ci fosse una maggiore parità. È un sistema, questo confuciano, che sebbene poi sia stato in qualche modo smantellato durante e rifiutato, no, durante poi tutto anche il periodo maoista, spesso in realtà anche durante questi periodi la donna ha sempre subito, sebbene ad esempio durante il periodo penso maoista c'era tutta la questione delle donne, le eroine di ferro, coloro che sostengono l'altra metà del cielo, che è uno slogan, no, del periodo maoista, tuttavia erano sempre comunque poi le donne che si dovevano far carico anche, no, di tutta la questione poi familiare. Era più importante quasi quella poi che era la lotta di classe piuttosto che quella legata al genere. Ti dicevo, Taiwan ha avuto la stessa un po' radice confuciana come altri, appunto, altri paesi dell'Asia, appunto gli anni poi 90 in particolare, che molti movimenti anche femministi si sono poi sviluppati. C'è un richiamo che io trovo spesso in alcune società dell'Asia, è quello della famiglia, la questione dell'armonia familiare, che viene richiamata in Cina, ad esempio, in moltissimi documenti ufficiali del governo, in molte leggi, ritroviamo l'idea comunque della famiglia come base, come cellula fondamentale della società e viene continuamente richiamata. Un caso interessante è quello dell'esempio della legge contro la violenza domestica, in cui all'articolo 1 della legge viene stabilito che uno degli obiettivi è quello di preservare l'armonia familiare. Mi ha molto incuriosito nel momento in cui ho studiato il sistema poi taiwanese, che la legge del 1998 taiwanese sulla violenza domestica inizialmente aveva inserito all'articolo 1 l'elemento dell'armonia familiare, cioè preservare l'armonia familiare, mentre è stato successivamente modificato nel testo successivo di questa legge, in cui è stato tolto questo elemento dell'armonia familiare, perché bisognava, secondo i movimenti anche di donne femministi taiwanesi, era importante invece, che erano stati coinvolti, no, nella stesura della legge, era invece importante far capire l'importanza in quel caso della vittima più che dell'armonia familiare. Questo invece in Cina non accade e mi aveva molto incuriosito questo passaggio, ecco, per farti un esempio. Grazie Sara, molto molto chiaro. Io approfitto del tema, cioè il confucianesimo, meglio del contesto, per diciamo riallacciarmi alla prima domanda di questa conversazione e chiudere in modo così molto confuciano questa nostra intervista. Due anni fa per Edizioni Le Lucerne hai pubblicato Fiori di Pioppo al Vento, storia di donne cinesi in cerca di diritti, che peraltro è stato presentato anche qui a Bologna alla Libreria delle Donne. Nel libro esplori i mutamenti che hanno interessato le vite delle donne cinesi nell'arco dell'ultimo secolo. Volendo tracciare un bilancio, ti chiederei cosa, come e quanto è cambiato per le donne cinesi in questo ultimo secolo di storia. Io nel libro parto da alcuni personaggi femminili dei romanzi cinesi e ho volutamente scelto dei personaggi che mi permettessero anche di andare un po' indietro, no, nel tempo. Dunque sono passata dalla concubina, poi a vedere quella che era la figura della vittima di violenza domestica, alla madre, alla moglie, tutto in una prospettiva in cui spesso ho anche spostato temporalmente un po' questi personaggi per delineare quello che è stato un po' il quadro, lo sviluppo di questo quadro normativo, che sicuramente in realtà ha portato un'evoluzione a quelli che sono i diritti delle donne in Cina. Quello che è cambiato anche secondo me in questi ultimi anni, io nel libro parlo di un personaggio, ad esempio quello legato alla madre, che è in qualche modo vittima della politica del figlio unico, e faccio anche cenno al fatto che negli ultimi anni questa politica è stata allentata, no? Adesso si possono avere fino a 3 figli in Cina per favorire la natalità. Penso che attualmente, ad esempio, proprio su questo aspetto dei diritti riproduttivi è interessante proprio il fatto invece che adesso sia tutto al contrario, nel senso che prima magari l'aborto era maggiormente incoraggiato, mentre adesso si parla anche di un restringimento di questo diritto. Quello che mi ha colpito anche è che recentemente, quando c'è stato il congresso nazionale delle donne cinesi, per la prima volta l'attenzione non è stata più tanto posta sulla questione dell'uguaglianza di genere, che viene spesso richiamata nei discorsi politici, ma l'attenzione era tutta puntata sul ringiovanimento della nazione e dunque tutto l'aspetto legato alla natalità. In tempi poi di crisi, diciamo che l'uguaglianza di genere va un po' nel dimenticatoio e sempre un po' in questa idea di contribuire allo sviluppo poi, no, della nazione. Un altro elemento interessante è stato quello dell'aumento dell'età pensionabile, sempre legato a questa questione dell'invecchiamento della popolazione. Quello che ancora forse manca anche è la presenza delle donne ai vertici del paese da un punto di vista politico. Questo permetterebbe sicuramente anche di avere una maggiore rappresentanza di quelle che sono le istanze delle donne in Cina. Insomma, l'Asia e la Cina saranno al centro della nostra attenzione anche per quanto riguarda questi processi. Il nostro tempo sta finendo. Io vorrei ringraziarti ancora una volta per il tuo contributo e diciamo nella speranza di risentirci presto su queste frequenze. Grazie Alessandro. Bene, noi ci risentiamo il prossimo sabato sui 103.1 in FM o online, ovviamente la stazione è Radio Città Fucino.